Allora, abbiamo fatto ricorso effettivamente a più automedicazione, siamo andati più spesso in farmacia perché dovevamo curare i nostri malanni, che più delle volte sono proprio questi dolori fastidiosi che colpiscono un'articolazione, che colpiscono la colonna vertebrale, che ci danno anche un po' quel mal di testa, quella tensione nucale. Se lo abbiamo fatto con più frequenza, ecco, questo diario ci può essere utile per fare i medici di noi stessi, cioè il momento giusto per sentire magari anche il nostro medico curante, parlarne con lui e capire se questi dolori hanno un'origine diversa da quello che noi pensiamo. Se questo invece non è successo, l'automedicazione è fondamentale, è utilissima, perché il paziente, il cittadino, chiamiamolo così a questo punto, che ha bisogno di quel rimedio che il farmacista gli può consigliare senza arrivare fino nello studio del medico, risolve spesso questi piccoli problemi e quindi si può avvantaggiare di tutto questo. Quindi, dottor Gargiulo, usiamo moderazione, proviamo ad ascoltarci. Brava, bravissima, e sono d'accordo anche con quello che ho sentito, bisogna riuscire a valutare il proprio corpo, bella l'idea della fotografia che ci fa vedere un po' la postura, ma è anche interessante fare una fotografia di come andiamo in bagno, di quello che mangiamo, cioè riuscire ad avere degli elementi che ci aiutino a non dover ricorrere poi alle medicine. Le medicine ci arriveremo, ma nel momento in cui sono proprio strettamente necessarie.